Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buona serata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia per la giornata economico-finanziaria. Ebbene sì, ancora prima di iniziare, ancora prima della sigla di apertura del nostro programma, già molti ascoltatori si sono affrettati a segnalarci, ma dobbiamo dirvi, lo sapevamo già, che il governo ha intenzione di modificare il provvedimento sugli sgravi fiscali legati ai lavori di riqualificazione energetica delle abitazioni, degli immobili, per cui siccome il Parlamento toglierà la retroattività, questa è una notizia molto importante, il provvedimento appunto che voleva ridurre le agevolazioni fiscali per chi intende fare questi lavori molto importanti o per chi soprattutto li aveva già fatti, insomma il Parlamento appunto toglie la retroattività, come vi dicevamo. Oggi c'è stato un emendamento del Ministero dell'Ambiente, quindi un emendamento che porta la firma del Ministro Prestigiacomo. Fra un po' ci raggiungerà il collega delle Sole 24 Ore Marco Bellinazzo per spiegarci esattamente a questo punto in che cosa consiste nella sua completezza la marcia indietro del governo, visto che comunque riguarda, dicevamo, solo la retroattività della misura che era stata varata con il decreto 185 recante contenente provvedimenti anticrisi. Sentiremo ancora molte voci che sono state diffuse oggi sulle misure del governo per arginare la crisi finanziaria in corso. E poi di che cosa parleremo oggi? Naturalmente di borsa. La situazione è stata piuttosto pessima da questa mattina, ma nel pomeriggio, grazie anche a Wall Street, il quadro è nettamente migliorato. Adesso c'è un rialzo sul Dow Jones negli Stati Uniti dello 0,56%, il Nasdaq sta guadagnando l'1,43%, lo Standard & Poor's lo 0,6%, e hanno virato in positivo anche tutte le altre piazze europee: Parigi più 0,08, Francoforte più 0,68. Londra più 0,57%, rimane ancora un po' indietro Milano, che è negativa, ma anche Milano sta migliorando la sua giornata, meno 0,19% sull'S&P MIB in questo momento, MIPTEL meno 0,22%. Abbiamo oggi sotto i riflettori Telecom per la presentazione a Londra del piano industriale dell'amministratore delegato Franco Bernabé. Tra l'altro oggi società sotto i riflettori, al di là per il piano industriale, appunto soprattutto per le misure e i tagli occupazionali che il gruppo ha comunicato che intende fare, altri 4.000 rispetto ai 5.000 già preannunciati in precedenza. Poi parleremo anche del settore auto, del salone auto a Bologna, tutte le indicazioni che stanno venendo dalle case automobilistiche presenti in questa vetrina, indicazioni che richiamano soprattutto la necessità, per ritornare a sostenere questo settore, di ritornare agli incentivi per la rottamazione. Non è di questa intenzione, almeno in questo momento, il governo. Vedremo se comunque le richiami da parte dei marchi in qualche maniera verranno colti. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Adesso le altre notizie in breve della giornata. Cominciamo con il petrolio, che continua la sua tendenza alla discesa. Oggi ha toccato addirittura i minimi dal 2005 a New York, però negli primi scambi il greggio guadagnava lo 0,4% circa rispetto alla chiusura di ieri, a $47,15 al barile. Electricité de France ha lanciato un'offerta da $4,5 miliardi per la metà delle attività del nucleare di Constellation Energy, per contrastare una proposta concorrente proveniente dal miliardario americano Warren Buffett. Quindi ci sono, nonostante la crisi economica, il credit crunch, ancora alcuni settori che in qualche maniera riescono ad essere un po' movimentati. Addirittura c'è qualche azienda che ha liquidità in cassa al punto tale da poter lanciare offerte anche su altre aziende. Ancora buone notizie sui mutui: scende ancora il tasso interbancario denominato in euro. L'Euribor a tre mesi è sceso al 3,74%, ai minimi dal 9 gennaio del 2007. Abbiamo avuto oggi dei dati economici contrastanti dagli Stati Uniti. L'indice ISM, che sintetizza l'andamento del comparto non manifatturiero statunitense, a novembre è crollato a 37,3 punti dai 44,4 della rilevazione precedente. Il dato appunto è, come si diceva, peggiore delle attese. Abbiamo avuto poi anche il dato relativo al tasso di produttività non agricola dell'economia statunitense, che nel terzo trimestre ha registrato un rialzo dell'1,3% in base alla lettura finale diffusa oggi. In questo caso invece il dato è migliore delle attese. Il commissario europeo agli affari economici e monetari, Joaquín Almunia, ha confermato che l'attuale scenario dell'economia europea è quello di una recessione, pur sperando che i primi segnali di ripresa comincino a manifestarsi già dalla fine del 2009. E sempre Almunia ha assicurato che la zona euro non correrebbe alcun rischio deflazione. Giorni fa ha spiegato, detto che alcuni parlano del rischio deflazione, ma non credo che nella zona euro ci sia un rischio reale. L'industria italiana ha tagliato i consumi elettrici di quasi un terzo in due mesi, dando un segno della forza della recessione. Lo ha riferito il Financial Times, elencando tutti i segnali della crisi che sta colpendo in particolare l'Italia. L'amministratore delegato di Terna, Flavio Cattaneo, cita il quotidiano, ha affermato che si è registrato un calo del 30% in ottobre e in novembre. La produzione di acciaio e di automobili è stata particolarmente colpita. E qui, insomma, abbiamo una notizia che invece ci potevamo anche aspettare: tonfo del 33,8% per i passeggeri di Alitalia ad ottobre, mentre la flessione è stata del 20,7% nei primi 10 mesi del 2008, lo ha indicato l'Associazione delle Compagnie Aeree Europee. Telecom, ne parleremo più avanti nella trasmissione. Il gruppo da Londra ha fatto sapere di prevedere di ridurre ulteriormente gli organici con un taglio di 4.000 posti di lavoro sul perimetro domestico. È quanto si legge nella nota di presentazione del piano strategico 2009-2011. L'intervento si aggiunge alla già prevista riduzione di 5.000 risorse entro il 2010. Cos'altro prevede il piano industriale 2009-2011 di Telecom? Una crescita media annua nel periodo dei ricavi organici al 3% e un margine operativo lordo oltre il 39%. Per il prossimo anno il gruppo prevede ricavi consolidati e un margine operativo lordo in linea con il 2008 e investimenti intorno ai 4,8 miliardi di euro. Gli obiettivi triennali prevedono la progressiva dismissione delle attività non core, quindi non strategiche, per un valore atteso fino a 3 miliardi di euro. La rete, una cosa che fa parte del nostro core business, ma mai sarà oggetto di uno spin-off e quindi di una scissione, ha detto Franco Bernabè, amministratore delegato del gruppo, rispondendo sulle ipotesi di uno scorporo della rete. La politica dei dividendi, infine, e un eventuale taglio verrà discussa il 27 febbraio nel corso del prossimo consiglio di amministrazione sull'approvazione del bilancio, così rispondendo a chi gli chiedeva lumi a Bernabè appunto su questo punto, quindi appuntamento rinviato al 27 febbraio. Adesso lasciamo le notizie in breve e andiamo al primo approfondimento di oggi. Audizione parlamentare oggi del ministro dell'economia Giulio Tremonti sul piano anticrisi. Tremonti è intervenuto su numerosi punti, è intervenuto anche sulla questione Sky. Se le autorità italiane dovessero insistere nel non cambiare le aliquote IVA sulla TV a pagamento, la Commissione europea dovrà aprire una procedura di infrazione. Questo lo aveva detto un portavoce dell'esecutivo europeo, sottolineando che le aliquote non possono essere diverse. A questo punto il caso è chiuso, sempre un portavoce della Commissione europea, in relazione appunto alla procedura avviata da Bruxelles con l'Italia a proposito delle aliquote IVA applicate ad alcuni servizi televisivi. Nel momento in cui le autorità ammettono che c'è un problema e informano che hanno preso una decisione per porvi rimedio, il caso è chiuso. Su questo ovviamente poi il ministro Tremonti oggi ha detto la sua in audizione, come vi dicevamo prima, davanti alle commissioni bilancio e affari comunitari alla Camera. È ancora aperta e viene reputata ancora oggetto necessario di interventi l'azione di politica economica mirata alla sostenibilità economica. Su questa il cantiere è reputato ancora aperto. Gli ammortizzatori sociali sono la politica da seguire il prossimo anno, assicurato ancora Tremonti. Sul deficit non possiamo fare i fenomeni, il nostro vincolo non è il patto, come spesso leggo sui giornali, ma il nostro unico vincolo è il mercato finanziario. Lo dice appunto Tremonti in questa audizione, ribadendo la linea della prudenza. Noi dobbiamo essere prudenti e attenti e non c'è spazio per iniziative atipiche e unilaterale. Infine, sulla questione del blocco delle tariffe, nel decreto legge anticrisi ha specificato non c'è un blocco delle tariffe per luce e gas, ma le bollette devono scendere. Sentiamolo. C'è la norma che blocca i diritti, le tariffe che vengono addebitate dalle pubbliche amministrazioni come contropartita dei servizi pubblici erogati, per esempio la motorizzazione. Dal 1 gennaio quelle voci sono congelate, non possono salire rispetto al 2008. L'altro universo, i pedaggi, è previsto che ci sia una sospensione dell'aumento dei pedaggi in funzione della definizione di un piano industriale. Bollette devono scendere e abbiamo attivato dei meccanismi per farle scendere, interni alle authority, ma dei meccanismi, delle procedure che riteniamo, identificando delle aree di inefficienza e spingendo in una logica di trasparenza, faranno scendere le tariffe. Se avessimo bloccato le tariffe avremmo prodotto un effetto negativo, perché comunque cadendo il costo delle materie prime sarebbero scese. Noi vogliamo che scendano di più o diverso, anche in dipendenza di una diversa azione delle authorities, rimuovendo delle realtà che abbiamo notato essere poco, come dire, efficienti e poco corrette nei confronti dei consumatori. Tremonti è intervenuto dopo sull'altra norma, sull'altro provvedimento contenuto nelle misure anticrisi che aveva sollevato un deciso vespaio di polemiche non solo in questi giorni. Parliamo delle modifiche al bonus fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico. Il Parlamento, ha fatto sapere Tremonti, poi spiegheremo come mai è arrivata questa decisione, toglierà la retroattività dalla norma. Sentiamo. Sarà corretto da iniziativa del Parlamento, non saranno retroattivi. La retroattività è un errore del quale assolutamente dobbiamo farci carico. Il provvedimento è molto complesso, è stato sviluppato con grande velocità perché la base di ragionamento l'abbiamo avuta giovedì dalla Commissione europea. La retroattività non ci può essere, però sul futuro devo ribadire un criterio che credo sia un criterio di civiltà di questo paese. I crediti d'imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati organizzati come bancomat, creando effetti di illusione, di slealtà fiscale da parte dei governi e degli stati nei confronti dei beneficiari. Questo credito lo copro in bilancio per 82 milioni e poi legge sui giornali che l'impatto è stato di 1 miliardo e 800. Naturalmente vanetizzato a 55, ma l'impatto è stato enormemente superiore alla copertura in bilancio. Questo è assolutamente incivile e con questo governo questo non potrà essere. Ci saranno dei meccanismi che allineano i crediti alle coperture. Allora, buonasera collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Buonasera. Dopo averti spremuto a dovere ieri sera, oggi naturalmente abbiamo dovuto richiamarti per aggiornarci anche su questa novità piuttosto importante, soprattutto per tutte quelle famiglie che hanno già, e imprese anche soprattutto, hanno già eseguito i lavori nel 2008 e che avevano visto nel giro di poche ore negli ultimi giorni vanificare anche lo sforzo finanziario sostenuto per opere che a volte sono, anzi sempre sono, costose, enormi, quindi dal punto di vista finanziario molto importanti. Allora, non è che questa mattina Tremonti si è alzato e è andato all'audizione e ha detto cancello la retroattività. C'è stato un pungolo preciso che è arrivato al Ministro dell'Economia, Marco. Sì, tra l'altro ora ascoltando la voce registrata di Tremonti ho colto un passaggio in cui lui dice saranno modificate le norme su iniziativa parlamentare. C'è una notizia in questo, in quanto proprio stamattina si era attivato il Ministero dell'Ambiente presentando l'emendamento, appunto, presentando un emendamento, quindi insomma c'era un'iniziativa governativa e non parlamentare. Evidentemente il ministro Prestigiacomo, che è titolare, diciamo, della materia, ha subito voluto, come dire, intervenire per cancellare quella che effettivamente è una norma che potrebbe creare, che potrebbe ancora creare grossi problemi a imprese e cittadini che hanno fatto lavori, come hai ricordato tu, anche spesso molto consistenti. Onerosi, certo. E quindi effettivamente ora si apre uno scenario anche, se vuoi, di scontro interno al governo, in quanto tra l'altro l'emendamento presentato dal ministro Prestigiacomo dovrebbe cancellare tutto l'intervento sul 55%, cioè riportando la disciplina a quella che era fino al 29 novembre. Quindi per esempio eliminando anche i tetti fissati per il 2009 e il 2010? Chiarissimo. Teoricamente il Prestigiacomo vorrebbe arrivare a questo? Vorrebbe arrivare a questo, cioè riportare l'automatismo che c'era in questo bonus fiscale, che se vuoi è implicito in un incentivo. Parliamoci chiaro, qui si tratta di una norma che prometteva e garantiva uno sconto fiscale del 55% in maniera certa e automatica. io voglio fare un lavoro, voglio rifarmi la caldaia, mi costa una certa cifra. 3.000 euro mettiamo, adesso mettiamo. Facciamo proprio l'esempio basico. Io sapevo che avrei avuto uno sconto del 55%, quindi di oltre 1.500 euro, su quello che avrei pagato. Avrei pagato quindi meno tasse per 1.500 euro negli anni successivi. Il che mi incentivava a fare questo lavoro, che altrimenti, insomma, magari anche in fasi di crisi economica avrei rimandato. Certo. Nel momento in cui mi si dice no, questo, non è, questo incentivo non è più certo, ma dovrai fare una richiesta con un modulo che poi l'Agenzia delle Entrate dovrà preparare. Noi vaglieremo le richieste in base all'ordine cronologico e potrai ottenere lo sconto solo se... Se noi ti rispondiamo direttamente, tra l'altro. Esattamente, tra l'altro c'è un meccanismo di silenzio e rigetto. E soltanto se ci saranno i fondi disponibili, beh, cambia un po' le cose, non è più un incentivo. Quindi ha ragione Tremonti quando, volendo garantire la stabilità dei conti pubblici, dice mai più crediti d'imposta Bancomat. Ma è anche vero che se si vuole stimolare l'economia, soprattutto in un momento di impasse come questo, bisogna dare delle certezze, soprattutto quando si devono pianificare delle strategie di investimento, come molte imprese che per esempio hanno rifatto i capannoni o le strutture spendendo centinaia di migliaia di euro, certo, non più i 3.000 euro di cui all'esempio di sopra, senza ora avere più la certezza che potranno recuperare questi soldi. Mm-hmm. Ora Tremonti dice, bene, per il 2008 cancelleremo questo provvedimento, quindi si avrà la certezza di poter ottenere il beneficio. Per il futuro invece, per il 2009 e il 2010, perché l'incentivo, ricordiamo, è prorogato fino al 31 dicembre 2010, questa certezza non c'è più. Molti, per esempio, imprenditori ci stanno scrivendo che hanno programmato con delle imprese i lavori e ci stanno ripensando perché infatti, non avendo più... E infatti diciamo che un po' tutto l'impianto della misura così come concepita inizialmente, se non fosse arrivato adesso l'emendamento del Ministero dell'Ambiente e quant'altro, ha potenzialmente delle ricadute enormi su tutto il tessuto economico ed imprenditoriale. Perché è chiaro che in un momento di crisi economica in cui si fermano lavori di un determinato tipo, di un settore che magari continuava ad andare, certo che forse diciamo che per certi versi il ministro Tremonti, pur immaginando ovviamente di risparmiare molto, cercando di così immaginare di non dover restituire questi soldi, è chiaro che il governo intendeva mantenersi una cassa. Però forse qualche, come dire, conseguenza l'ha un po' sottovalutata, anche le prese di posizioni fortissime, non dico quella di Confindustria, magari ce la potevamo anche immaginare, ma ci sono state prese di posizione a 360 gradi assolutamente trasversali, Marco, in queste ultime due giornate. Ieri Confindustria, Confartigianato, ma moltissimi imprenditori hanno scritto anche ai giornali, a noi abbiamo ricevuto tante mail di persone veramente imbufalite, per usare un termine insomma abbastanza preciso, perché questo è proprio il tenore di queste email. E del resto dobbiamo guardare ai numeri. I numeri ci dicono che effettivamente l'impatto positivo di questa misura c'era stato, perché tra il 2007 e il 2008, come ha ricordato anche il ministro nell'audizione, sono state portate in detrazioni, diciamo, somme pari a 1,8 miliardi. Per interventi che nel loro complesso hanno, diciamo, stimolato l'economia per oltre 3 miliardi di euro. Insomma, non sono cifre che si possono sottovalutare. Certo. È chiaro che nel momento in cui nel 2008 si preventiva una spesa straordinaria di 1 miliardo di euro, perché a tanto dovrebbero ammontare le istanze di rimborso dei contribuenti per quest'anno, e i conti pubblici sono quelli che sono e soprattutto c'è bisogno di stimolare altrimenti l'economia, si punta a porre un tetto, ma 90 milioni rispetto a un potenziale di richiesta di 1 miliardo sono effettivamente troppo poche. Certo. Uno su 10 potrebbe in qualche modo, uno su 9, nella migliore delle ipotesi, potrebbe accedere a questo beneficio. Ecco, detto che adesso potenzialmente si può aprire lo scontro fra i due ministri, ma questo diciamo è una cosa che lasciamo da parte, che non ci interessa, ammettendo appunto che il ministro Tremonti non sia disposto a negoziare con la Prestigiacomo e con il Ministero dell'Ambiente tutto l'intero pacchetto, ma negozi solamente sulla retroattività relativa al 2008 e accetti appunto di cancellare questo passaggio, a che cosa rinuncia il governo in termini appunto di risparmio, Marco? Guarda, i conti sono abbastanza semplici, si tratta di circa 900 milioni. Che se consideriamo che l'intero pacchetto di misure di stimolo all'economia e di sostegno alle famiglie, la social card, il bonus insomma, sulle bollette energetiche, si aggira intorno ai 5-6 miliardi, insomma, dipende poi da come lo si guardi, ma insomma, una fetta consistente della copertura arrivava da questo intervento. e almeno 900 milioni insomma si dovranno trovare in un altro modo. E quindi anche lì poi vedremo, speriamo di non dover affrontare domani qualche altra sorpresa in qualche altro senso. Detto questo, allora, potenzialmente a bocce ferme, per poter dare delle informazioni più o meno certe adesso ai nostri ascoltatori, per chi ha eseguito lavori e per chi li sta pagando magari e deve continuare a finire di pagare entro la fine dell'anno, teoricamente... Per il momento possiamo dare una buona notizia, ecco. Ci fidiamo delle indicazioni di Tremonte, quindi chi ha fatto lavori nel 2008 può contare sullo sconto del 55%, non cambia nulla. Non cambia nulla, quindi rimane la procedura di fare la comunicazione di fine lavori all'Enea, non deve fare nessuna comunicazione richiesta preventiva all'Agenzia delle Entrate come aveva immaginato il governo in questo momento, fino a poche ore fa, e quindi... Può stare tranquillo. Speriamo che noi domani anche a Salvadanaio, tra l'altro, ce ne occupiamo. Vediamo se da oggi, da questo momento fino a domani alle 12, ricambia di nuovo qualcosa. Quindi almeno questo. Per il resto, 2009-2010. Invece la procedura dovrebbe cambiare, ci sarà un formulario che l'Agenzia delle Entrate produrrà se vincerà Tremonti, se vincerà la Prestigiacomo invece dovrebbe restare tutto come da qui al 2010. Ballano però altri 2 miliardi di euro, insomma, non sono cifre. Insomma, Tremonti magari potrebbe piccole. Non essere disposto su questo. Io immagino di a no. negoziare. Marco, grazie molto per essere stato con noi, magari probabilmente ci risentiamo anche domani sera. Grazie ancora, e noi adesso andiamo avanti. Tra l'altro dobbiamo parlare ancora le misure del pacchetto anticrisi decise dal governo sui provvedimenti da adottare contro la crisi economica. Sentiamo anche l'opinione del ministro ombra dell'economia del PD, Pierluigi Bersani. Non siamo dei matti, sappiamo benissimo qual è il quadro delle compatibilità. Però, non c'è bisogno di essere economisti per capire quello che andrebbe fatto. Noi dobbiamo rafforzare due operazioni. Una, quella di sostegno immediato ai redditi per i consumi, e l'altro, sostegno e accelerazione degli investimenti. Come possiamo fare queste cose? Lo possiamo fare con misure prevalentemente temporanee, ma anche strutturali in alcuni casi. Per i redditi. Noi dobbiamo fare un'operazione forte sugli ammortizzatori e poi vediamo se infilarli dentro anche un pezzo di riforma del sistema, e dobbiamo fare un'operazione di detrazione fiscale sulla pensione stipendi. Eccoci di nuovo ritrovati in diretta, ancora qualche minuto per ascoltare qualche voce e qualche commento, come stiamo facendo da molti giorni a questa parte, relativo al pacchetto anticrisi varato dal governo. Tra l'altro molte misure le stiamo anche commentando e spiegando il mattino con Salvadanaio, e ovviamente tutto è ancora molto oggetto anche di correttivi. Avete già visto che cosa è successo oggi con il bonus del 55% legato ai lavori per la riqualificazione energetica degli immobili. C'è questo passo indietro sulla retroattività relativa al 2008 per iniziativa tra l'altro di un emendamento presentato dal Ministero dell'Ambiente. Ogni giorno ci sono degli aggiustamenti, per esempio per quello che riguarda il bonus sociale, poi la social card, per cui ancora lavori in corso. Il pacchetto è tutto sommato ancora un cantiere abbastanza aperto. Detto questo, però, le misure del pacchetto anticrisi decise dal governo italiano vanno nella giusta direzione, ma sono migliorabili. Questo è pure il giudizio espresso da Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio, al convegno sulle prospettive dei mercati finanziari che è stato organizzato questa mattina a Roma dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Abbiamo apprezzato la detassazione per i contratti di produttività, la revisione congiunturale degli studi di settore, l'IVA di cassa, la deducibilità forfettaria dell'IRAP, certamente l'impegno a velocizzare i rimborsi fiscali, soprattutto i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, il potenziamento finanziario dei consorzi di garanzia FIDI, l'accelerazione della spesa per le infrastrutture ed anche l'attenzione agli ammortizzatori sociali. Però mi permetto di dirlo, perché era una misura della quale noi ci credevamo molto, è mancata la scelta importante della detassazione della tredicesima, che era una misura necessaria perché avrebbe dato innanzitutto una boccata d'ossigeno alle famiglie e avrebbe dato anche una scossa significativa alla domanda interna. Ma vi è anche la necessità di una adeguata valutazione dell'impatto di questa crisi in sede di studi di settore. Basti ricordare al riguardo che solo nei primi 9 mesi di quest'anno si registra una riduzione netta del numero di imprese commerciali di oltre 30.000 unità. Il presidente di Confcommercio Sangalli, sempre nel corso del suo intervento in questo convegno di questa mattina a Roma, ha focalizzato la sua attenzione anche sul tema dei consumi, illustrando quelle che secondo il suo punto di vista sono le prospettive per il futuro di un 2009 di forti difficoltà in Italia. Sentiamo. Sul versante dei consumi, le previsioni del nostro ufficio studi ci dicono che la domanda interna sarà in calo per 3 anni consecutivi, meno 0,5 nel 2008 e nel 2009 e meno 0,4 nel 2010. Numeri che tradotti significano che non ci saranno dei crolli, la cosiddetta crisi a V, ma che patiremo, come lo stiamo già facendo, una crisi più lunga, una crisi a U, come d'altronde confermano le stesse previsioni sui cosiddetti consumi di Natale. Insomma, si intravede la possibilità che la fase più acuta di riduzione della domanda per consumi sta giungendo al termine, il che però non vuol dire che le prospettive dell'economia siano favorevolmente orientate ad una ripresa, ma soltanto che in futuro ci sarà una fase abbastanza lunga di assestamento dei ridotti livelli di spesa aggregata e pro capite raggiunti nel corso del 2008. È finita dunque l'era della crescita a debito e del primato del capitalismo finanziario sulla economia reale. E ripartire non sarà facile, da qui discende anzitutto la necessità di risposte profonde, straordinarie ed urgenti. In tema di crisi arriva anche una proposta da Alberto Brambilla, che è il padre della riforma del TFR, del trattamento di fine rapporto, che porta la firma del ministro Maroni, ma tecnicamente l'ha scritta l'ex sottosegretario al welfare Alberto Brambilla. Oggi è membro del nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Brambilla propone il rilancio dell'economia attraverso l'utilizzo dei flussi incassati dalle casse previdenziali dei fondi pensione, destinandoli agli investimenti appunto in infrastrutture. Brambilla è stato intervistato sempre a questo convegno di Roma dalla nostra Chiara Di Michele. Vogliamo verificare per i gestori previdenziali di primo livello, quindi le casse pubbliche obbligatorie e i fondi pensione, come impostare i nuovi investimenti. E abbiamo ragionato sin dall'inizio dell'anno di cercare quei rendimenti obiettivo che sono tipici della gestione. Quindi, in presenza di una crisi come quella attuale, il messaggio che vogliamo dare è investimenti prudenti e soprattutto il più possibile legati a beni reali, per esempio potrebbe essere anche le infrastrutture. Per esempio noi abbiamo dei flussi enormi di contributi che vengono incassati sia dalle casse privatizzate che dai fondi pensione. Le casse privatizzate mediamente incassano 4-5 miliardi di euro l'anno di nuovi contributi tutti gli anni, i fondi pensione ancora di più. Allora, siamo un paese che ha le reti infrastrutturali che sono abbastanza vecchie. Se queste entità si mettessero assieme al governo e finanziassero, per dire, un programma tutte assieme di circa 1 miliardo di euro l'anno per 10 anni, sarebbe 10 miliardi con una leva incredibile che muoverebbe 20-25 miliardi di euro nel paese. Quindi io vedo molto bene che fondi pensione e casse di previdenza si siedano con il ministro dell'economia e pianifichino semplicemente un accordo per fare in modo che questo paese si sviluppi di più. Intanto, poco fa, lasciando la cronaca italiana, ci torneremo tra poco per raccontarvi la giornata di borsa, il presidente neoeletto negli Stati Uniti Barack Obama ha formalizzato la designazione di Bill Richardson, governatore del New Mexico, come segretario al commercio. Obama ha così praticamente completato la formazione del governo. Richardson è l'unico governatore americano di origine ispanica e nel 2007 aveva tentato la corsa delle primarie per la presidenza. Adesso lasciamo il pacchetto anticrisi del governo per andare invece alla giornata di borsa. Allora, giornata a due facce per quello che riguarda i mercati finanziari, perché abbiamo avuto una mattinata pessima, in peggioramento tra l'altro ad un certo punto, e poi nel pomeriggio invece cambio di direzione. Adesso abbiamo un quadro positivo ovunque, Wall Street compresa, che guadagna lo 0,8% sul Dow Jones, l'1,57% sul Nasdaq, lo 0,98% sullo Standard & Poor's, mentre la praticamente quasi chiusura delle borse europee è con il segno più a Parigi, più 0,44%, a Francoforte più 0,78%, Londra più 1,39%, Milano invece oggi è rimasta un po' indietro, riesce comunque con un piccolo balzo finale, un colpo di coda finale, a chiudere in positivo sull'S&P MIB più 0,14%, invece invariato il MIB. I temi del giorno quest'oggi, questa sera, li commentiamo con la collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore, Livia Zancaner. Livia. Sì, buonasera. Eccoci qua. Allora, cominciamo con i migliori titoli della giornata. Sul finale abbiamo avuto appunto un'accelerazione da parte dell'Espresso, più 5,77%, miglior titolo, Fondiaria più 4,96%, STM più 4,35%. Allora, cominciamo proprio con STM, perché in realtà ci aspettavamo una giornata peggiore date le cattive notizie che sono arrivate da una concorrente tedesca, Livia. Sì. Infatti Infineon oggi praticamente ha lanciato un profit warning sul 2009, infatti ha lasciato sul terreno oltre il 41%. Il gruppo tedesco ha comunicato di aver chiuso l'esercizio con una perdita netta di oltre 3 miliardi e di prevedere per il 2009 una contrazione delle vendite di circa il 15%. STM in realtà già a metà seduta stava registrando un rialzo superiore all'1% e poi sul finale di seduta appunto ha guadagnato il 4,35%. Secondo gli operatori l'unica spiegazione plausibile è che potrebbe esserci stato uno switch da Infineon, cioè praticamente qualche investitore potrebbe aver iniziato a vendere titoli Infineon e a comprare azioni STM. Che è pure scesa parecchio negli ultimi tempi, per cui anche qua forse magari qualcuno è ripartito anche con qualche ricopertura, prendendo atto della situazione appunto della tedesca. Terna più 3,61%, Livia, quarto miglior titolo della giornata a Piazza Affari. Sì, Terna ha guadagnato oltre l'8% in due sedute, grazie soprattutto alle precisazioni da parte del Ministero dell'Economia, che ha sottolineato che in materia di autostrade, energia elettrica e gas non si applica il blocco delle tariffe contenuto nel decreto anticrisi, in quanto viene confermato invece il meccanismo di determinazione dei prezzi da parte delle autorità, infatti. Il blocco delle tariffe aveva penalizzato nei giorni scorsi il titolo. E infatti, insomma, poi tra l'altro, come stavamo precisando anche prima, è proprio tutto ancora un cantiere aperto il pacchetto anticrisi, e ne avevamo già spiegato anche venerdì presentandolo subito dopo il Consiglio dei Ministri. È chiaro che i tecnici del Tesoro sono al lavoro anche per migliorare tutti quegli aspetti ancora poco chiari, e come questo appunto sul blocco delle tariffe, per esempio. Andiamo ancora a scorrere la lista dei migliori titoli della giornata. Mediaset più 3,15%, abbiamo avuto poi un rialzo di 3 punti circa per Fastweb, l'Automatica più 2,94%, Enel che è arrivata a 4,54€, oggi ha guadagnato il 2,48%, buona giornata per qualcuno ma non per tutti, titoli bancari più 2% per Intesa San Paolo, Finmeccanica più 2,4%, Mondadori più 1,58%, in recupero anche Snam Rete Gas più 1,23%, Unipol più 0,99%, ha risicato un punto anche Fiat, più 0,68% per Seat Pagine Gialle, Mediolanum più 0,56%, Monte dei Paschi più 0,07%, chiudono sullo zero la ex Autostrade, Geox e Autogrill, quindi senza nessuna variazione percentuale né positiva né negativa. Andiamo dall'altra parte della classifica, abbiamo adesso, non so notizie, se ne hai di notizie, Livia, questo calo improvviso del 4% di Pirelli è stato motivato da qualcosa in particolare? Allora, in realtà gli operatori spiegano questi movimenti anche sul finale di seduta come fondi che alleggeriscono le posizioni per le vendite o fondi che prendono posizione dall'altra parte per gli acquisti. Pirelli, in realtà, allora c'è stato un calo della tedesca Continental, questo perché spiegano sul mercato, perché praticamente in Germania il settore auto è sceso del 18% a novembre, quindi sul calo di Daimler, BMW, anche Continental ha perso terreno, dicono sul mercato per questo motivo, questo potrebbe aver influito come settore Pirelli. Alleanza meno 2,34%, Impregilo meno 2,20%, A2A abbiamo un calo del 2%. Stiamo commentando con Livia Zancaner di Radio Core Il Sole 24 Ore i casi di borsa. Eravamo rimasti, Livia, da 2A che sulle finali di seduta perde 2 punti percentuali. Cos'è successo alla Utility Lombarda? Sì, allora in realtà 2A è arrivata a perdere oltre il 5% e la società ha ceduto il 19% circa dal 24 novembre. Allora, i timori più rilevanti da parte del mercato sono che la società Carlo Tassara di Roman Zaleski possa cedere la propria quota nel gruppo, che pare al 2,5%, proprio per sanare la propria esposizione nei confronti delle banche. Zaleski ha infatti raggiunto un accordo con le banche, accordo che prevede, oltre ad un aumento di capitale della società, anche la vendita di alcune partecipazioni. C'è anche da dire che la sua quota è del 2,5%, quindi probabilmente a vendere sono anche i soliti investitori istituzionali che devono cedere per forza a seguito di riscatti e altro. E inoltre bisogna dire che in questi giorni c'è il comitato dei saggi di A2A che è al lavoro per risolvere la solita situazione di stallo nel governo della società, situazione di stallo iniziata a settembre. E anche Prysmian, oggi parlavi di A2A che è arrivata a perdere il 5%, oggi in borsa Prysmian credo che sia arrivata addirittura a perdere l'8%, anche se sul finale poi recupera quasi tutto, il calo conclusivo è di un punto, Olivia. Sì, allora prima dell'apertura di Wall Street infatti Prysmian è arrivata a perdere quasi l'8% e gli operatori parlavano quindi di preoccupazioni in relazione all'azionista di riferimento di Prysmian che è Goldman Sachs. In realtà poi Goldman Sachs è rimasta positiva a Wall Street e secondo i trader comunque la volatilità sul titolo, su Prysmian, è molto elevata, visto che la società ha un flottante molto alto che per la maggior parte è in mano a investitori americani, quindi quando i fondi prendono posizione il titolo, come abbiamo visto in alcune occasioni, si impenna realizzando dei rally nel giro di pochi minuti o di poche ore, mentre quando i fondi prendono posizione iniziano a vendere, allora il titolo viene fortemente penalizzato. Questa è una fase di mercato davvero molto strana, l'abbiamo detto più volte, anche i titoli che sono costanti nelle crescite nel tempo, che comunque anche in fasi di mercato molto difficili hanno delle tendenze abbastanza stabili, come per esempio i titoli difensivi, e invece con una fase di mercato come questa si comportano come se fossero sul lotto volante, come i vecchi titoli della New Economy, con delle prestazioni a volte al ribasso o al rialzo clamorose. Questo oggi per esempio è stato il caso di Prysmian. Stamattina tra le SIM, tra le società di gestione, tra le sale operative, circolava anche la voce di un altro possibile merger, chiamiamolo così, nell'ambito bancario italiano, di un'altra aggregazione possibile. Chissà come potrebbe essere possibile in una fase così difficile in cui le banche davvero non sanno che lacrime piangere. Addirittura si vociferava di una fusione in arrivo fra UbiBanca e il Banco Popolare, Livia. Poi sì. Cosa è successo? Sì, sì, infatti allora, stamattina UbiBanca è arrivata a perdere fino al 5%, mentre ha chiuso poi a meno 1,34%, e stamattina circolavano appunto le voci di un possibile operazione straordinaria tra UbiBanca e il Banco Popolare, ma le voci sono poi state smentite, bisogna dire comunque sono rumor che circolano da mesi sul mercato, e in realtà poi secondo gli operatori le vendite di stamattina su UbiBanca erano motivate da un grosso pacchetto messo in vendita da parte di un hedge fund, più che quindi su operazioni straordinarie in vista con la Popolare. Con il Banco Popolare. Il caso di cui ci manca di parlare adesso è invece Telecom Italia. Livia, te lo abbono perché ci siamo collegati con la nostra Antonella Olivieri, che ha seguito oggi a Londra la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato Franco Bernabè. Pertanto io ti saluto e ti ringrazio. Buona serata. Grazie, buona serata. E Telecom, dicevamo, chiude sul finale con un ribasso dell'1,63%. Oggi a Londra presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale, quello che era stato promesso ad inizio anno sarebbe stato aggiornato e rivisto appunto. Sentiamo allora che cosa ha detto l'amministratore delegato quest'oggi, Franco Bernabè, a Londra. E tra l'altro la notizia un po' più preoccupante che è stata fornita è stata quella relativa ai nuovi tagli occupazionali, che saranno 4.000 solamente, che saranno 4.000 in Italia, un intervento che si aggiunge già alla prevista riduzione di 5.000 risorse entro il 2010. Franco Bernabè ha detto: il nuovo piano di Telecom chiede sacrifici a tutti. Sentiamolo. The streamlining of the organization structure generated by some of the project mentioned Il risultato della riorganizzazione della struttura determinerà, dice, una ulteriore riduzione del personale di 4.000 unità, oltre alla riduzione, come dicevamo prima, di 5.000 unità già annunciata a giugno, prevista nell'accordo firmato con i sindacati a settembre. Entro fine 2008 lasceranno l'azienda circa 2.000 persone contro le 1.400 previste dal piano originario. Le efficienze porteranno ad una riduzione delle unità del 14%, passando da 64.000 di fine 2007 a 55.000 nel 2011. Antonella Olivieri, buonasera. Ciao, buonasera. Antonella, buonasera a te. Allora, questa è la prima notizia della giornata. Per quello che riguarda, poi magari sentiamo anche i sindacati cosa hanno detto oggi a proposito di questi tagli annunciati da Bernabé. Allora, la revisione del piano annunciato ad inizio anno, quando appunto c'era stata la prima stesura del piano industriale Telecom, con intorno tante attese e poi un po' la delusione da parte della comunità degli investitori e finanziaria per questo rinvio, no? Alla fine dell'anno. Ci sono state delle novità importanti presentate stamattina a Londra, Antonella? Diciamo che il nuovo piano è esattamente un aggiornamento come era stato preannunciato. È sulla falsa riga del piano che è stato illustrato all'inizio appena insediato Bernabé, quindi non era stato approfondito molto, approfondisce un po' gli aspetti che erano già stati delineati, ma soprattutto, diciamo, rispetto al passato si focalizza su due aree principali ritenute strategiche, che sono l'Italia e il Brasile. Tutto il resto viene considerato potenzialmente in vendita, ovviamente come è stato specificato, a prezzi equi, non c'è l'intenzione di svendere nulla. Però questo significherebbe praticamente uscire dal broadband europeo, quindi dalla Germania, quel che resta dell'Olanda, uscire da Cuba e anche rinunciare a Sparkle, che è una infrastruttura di cavi sottomarini che collega con il traffico telefonico l'Africa del Nord e Sud America. E nel contempo è stato riaffermato l'interesse a prendere il controllo di Telecom Argentina. C'è un'opzione in scadenza che la Telecom ha intenzione di esercitare, ma c'è una situazione di discussione accesa con il partner locale, che è la famiglia Bertain, che non ha invece lo stesso interesse di uscire da Telecom Argentina. La dismissione, dicevo Antonella, la dismissione delle attività non strategiche porterà, secondo gli obiettivi di Bernabé, un introito di circa 3 miliardi di euro. L'obiettivo, come lui ha detto, è mettere mano finalmente alla situazione del debito. Lui dice: non ci possiamo più permettere a questo punto di non riprenderne il controllo, alla luce di come stanno andando i mercati finanziari. Mi pare che sia intervenuto anche su questo molto chiaramente stamattina, esatto, Bernabé. Diciamo che questo è proprio il punto focale del nuovo piano, è chiarissimo, è la priorità la riduzione del debito. E infatti a fine piano, che significa nel 2011, il rapporto tra indebitamento netto e il margine operativo lordo dovrebbe scendere a 2,3 volte, e dai circa 3 volte del livello attuale. Questo significherebbe recuperare flessibilità finanziaria, ma anche vorrebbe dire essere arrivati ad aver utilizzato tutte le risorse disponibili all'interno del gruppo, perché a quel punto si sarà venduto tutto quello che si poteva. In uno scenario, meno di considerare. In uno scenario, scusami Antonella, a meno di considerare? A meno di considerare le famose alternative di operazioni straordinarie. L'aumento di capitale che non è... L'aumento di capitale che, diciamo, in questa situazione non è ipotizzabile, l'aumento di capitale riservato neppure, sempre per il discorso che è difficile fissare un prezzo che sia equo e sia per la società sia per gli azionisti attuali, gli azionisti di riferimento che hanno pagato molto di più. E neanche sul dividendo Bernabé per il momento intende intervenire comunque? Non ha specificato nulla, perché in effetti è una decisione che compete al Consiglio, e il Consiglio che valuterà la politica di distribuzione del dividendo è fissato per la fine di febbraio, quando si avrà anche il bilancio dell'anno. Grazie ad Antonella Olivieri da Londra per essere stata con noi. Ha seguito il piano industriale di Telecom, appunto la presentazione da parte dell'amministratore delegato Franco Bernabè, e oggi su questo reazione del titolo abbastanza convulsa, perché era partito molto bene, era partito molto male con un ribasso di 1,5 punti, poi ha recuperato tutto, ha passato qualche minuto anche il rialzo di 1,5 punti, è andato giù fino al 4% chiudendo a -1,63. Insomma, forse anche la comunità finanziaria ha la massima incertezza intorno a questi numeri, ha aspettato di poterli valutare bene. Alla fine il titolo si è collocato, come dire, a metà strada fra tutte le prestazioni di oggi, -1,63% a 1,025 euro. Sono 18.09 e 30 secondi, ancora una buona serata da Deborah Rosciani per la seconda parte di Focus Economia. Vi faremo un po' rapidamente il punto della situazione sui principali temi di oggi, ma soprattutto torneremo a parlare del grande osservato speciale di questo momento. Ce ne sono tanti, per la verità. Oltre al comparto finanziario ci sono grandi difficoltà anche per il settore dell'auto. Ieri c'è stato il via libera da parte del Congresso americano al piano di aiuti alle più grandi aziende del settore negli Stati Uniti, poi ne parleremo. Intanto si apre anche il Salone del l'auto a Bologna, sentiremo l'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan per capire qual è l'aria che tira direttamente dagli operatori. Intanto rapidamente anche le altre notizie di oggi. Tanto per cominciare diamo anche la chiusura delle borse europee con una Wall Street positiva. Le piazze del vecchio continente sono riuscite a cambiare direzione nella seconda parte della giornata, chiudendo in positivo: Parigi +0,4%, Francoforte +0,78%, Londra meglio delle altre +1,14%, e per il rotto della cuffia ce l'ha fatta anche Piazza Affari, che chiude sull'S&P MIB con un rialzo dello 0,14%, mentre sul MIBTEL la chiusura è sulla parità. È ancora aperta e viene reputata ancora oggetto necessario di interventi l'azione di politica economica mirata alla sostenibilità economica. Su questa il cantiere è reputato ancora aperto, l'abbiamo detto per tutta la trasmissione, ma lo ha detto formalmente anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti oggi nell'audizione davanti alle commissioni bilancio e affari comunitari della Camera dei Deputati. Gli ammortizzatori sociali sono la politica da seguire nel 2009, ha assicurato il ministro dell'economia. Sul deficit non possiamo fare i fenomeni, il nostro vincolo non è il patto, come spesso leggo sui giornali, il nostro unico vincolo è il mercato finanziario. E poi ha precisato: nel decreto legge anticrisi non c'è un blocco delle tariffe per luce e gas, ma ha indicato le bollette devono scendere. Sentiamolo. Sarà corretto da iniziativa del Parlamento, non saranno retroattivi. La retroattività è un errore del quale assolutamente dobbiamo farci carico. Il provvedimento è molto complesso, è stato sviluppato con grande velocità perché la base di ragionamento l'abbiamo avuta giovedì dalla Commissione europea. La retroattività non ci può essere, però sul futuro devo ribadire un criterio che credo sia un criterio di civiltà di questo Paese. I crediti d'imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati organizzati come bancomat, creando effetti di illusione, di slealtà fiscale da parte dei governi e degli stati nei confronti dei beneficiari. Questo credito lo copro in bilancio per 82 milioni e poi legge sui giornali che l'impatto è stato di 1,8 miliardi. Naturalmente va netizzato a 55, ma l'impatto è stato enormemente superiore alla copertura in bilancio. Questo è assolutamente incivile e con questo governo questo non potrà essere. Ci saranno dei meccanismi che allineano i crediti alle coperture. Come avrete avuto modo di capire con grande chiarezza, l'intervento di Tremonti, che avevamo invece così stralciato dalla sua audizione questa mattina alla Camera, era l'intervento relativo alla volontà da parte del governo di togliere la retroattività dalla norma che introduce le modifiche al bonus fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico. E tra l'altro colgo l'occasione anche per rispondere agli ascoltatori che continuano a chiederci di chiarire meglio la questione. Lo abbiamo fatto nella prima parte di Focus Economia, non possiamo tornarci, ci torniamo incontriamo domani a Salvadanaio alle 12, ma all'ascoltatore che fa una domanda precisa e chiede l'emendamento della Prestigiacomo, cioè del Ministero dell'Ambiente, cancella l'articolo 29 o solo la retroattività? Credo che ci sia in questo momento una bella battaglia in corso fra i due ministri, perché il ministro Prestigiacomo intende cancellare tutto l'intervento che è contenuto nel pacchetto anticrisi. Al momento Tremonti ha detto il Parlamento toglierà la retroattività sul 2008, per cui speriamo nelle prossime ore di avere chiarimenti maggiori su quale sarà effettivamente il raggio d'azione del governo e quindi la marcia indietro, che cosa andrà a colpire. Detto questo, l'altra notizia del giorno riguarda la presentazione del piano industriale di Telecom a Londra stamattina alla comunità finanziaria da parte dell'amministratore delegato Franco Bernabé. Oltre ai target di crescita indicati per il gruppo, il non intervento per il momento sul dividendo, che verrà deciso il 27 febbraio, c'è però la notizia importante relativa ai nuovi tagli occupazionali, 4.000 posti in Italia che si aggiungono alla già prevista riduzione di 5.000 risorse entro il 2010. Abbiamo sentito prima i numeri da parte dell'amministratore Franco Bernabé, ma come avete modo di immaginare il mondo sindacale è sul piede di guerra. Sentiamo cosa ci ha detto Emilio Michel, il segretario generale della SLC-CGL, lo ha intervistato la nostra Valeria De Rosa. Se ancora qualche mese fa, a settembre, avevamo fatto un accordo su 5.000 esuberi volontari, ci coglie di sorpresa. Significa che questa è un'azienda che vive giorno per giorno e che ha un management il quale non ha un'idea chiara di quello che si deve fare. Si tratterebbe, a quanto pare, di 4.000 esuberi. Vorrei ricordare, non sarebbero più volontari come è successo a settembre, ma sarebbero 4.000 esuberi veri. Il 10 prossimo ci incontreremo, era già stato deciso, quindi sentiremo, ascolteremo le ragioni dell'azienda, dopodiché parleremo con la CISL e la UIL le decisioni di cose da fare, le iniziative da svolgere. $34 miliardi per salvare le case automobilistiche di Detroit. General Motors, Ford e Chrysler avanzano le loro proposte di sopravvivenza al Congresso americano e sperano in un intervento rapido, altrimenti il loro futuro è a rischio. A General Motors servono almeno $4 miliardi per superare quest'anno. A Chrysler ne servono 7 prima del 31 dicembre. E se da un lato Ford sembra la casa americana in condizioni migliori, i piani presentati da GM e Chrysler mettono in evidenza le difficoltà dell'industria automobilistica americana. Ne abbiamo parlato decine di volte, dipingendo un quadro peggiore del previsto in un contesto in cui le vendite di auto continuano a scendere. E intanto, come dicevamo appunto, General Motors ha alzato il velo su un piano drastico che prevede il taglio di 31.500 posti di lavoro entro il 2012. Il colosso di Detroit chiede al Congresso statunitense $18 miliardi di sostegno di dollari, di cui 12 per garantire l'operatività nel prossimo anno. E però, insomma, il settore auto è in difficoltà ovunque, come sapete bene. Nel nostro paese abbiamo avuto 2 giorni fa i dati sulle matricolazioni in Italia, qua abbiamo un mercato che continua a scendere. Chissà cosa hanno detto gli operatori a Bologna in queste ore dopo il motor show oggi, è andato a seguirlo l'inviato delle Sole 24 Ore, Andrea Malan. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Poi vi dirò anche cosa ha detto il presidente Barack Obama oggi su tutto questo, presentando anche in una conferenza stampa a Chicago il nuovo ministro del commercio Bill Richardson. Andiamo a Bologna, poi sentiremo anche alcuni operatori del settore che erano lì. Intanto, che clima hai trovato, Andrea? Il clima non è particolare. Parafrasando una frase di Woody Allen. Non abbiamo avuto modo di sentire la frase di Woody Allen. Allora facciamo una cosa, adesso ripristiniamo il collegamento con Andrea Malan, che sta tornando da Bologna a Milano al termine di questa giornata, in attesa di recuperare il collegamento con lui. Torniamo appunto sulla crisi del settore e sulle prospettive del mercato per i prossimi mesi. Sentiamo Philippe Daget, speriamo di averlo pronunciato correttamente, adesso la mia collaboratrice Barbara Bianchi mi guarderà male, è il direttore generale di Renault Italia, intervistato dal nostro Emilio Buttaro appunto nell'ambito del Motor Show di Bologna. Per me le cose sono in due, c'è la crisi finanziaria e c'è la crisi di liquidità, cioè la crisi finanziaria fa che l'attività economica dell'Italia è in calo, cioè ci sono meno possibilità di comprare una macchina, e la crisi di liquidità è che per quelli che vorrebbero comprare una macchina non c'è possibilità di fare di prendere un impegno su 5 anni, perché i soldi non ci sono. Cioè il nostro business, cioè quello delle macchine, è stato toccato da queste due crisi, crisi economica e crisi finanziaria e crisi della liquidità. Ecco, a suo avviso, quanto durerà questa crisi? Nessuno lo ti può dire questa cosa. No, la nostra previsione è che, sappiamo già che il mercato del 2008 è in crollo rispetto a quello del 2007, perché siamo a meno 15%, almeno questo è il mercato visibile. Quando vediamo il mercato vero, cioè quello dei clienti che comprano la macchina, siamo più verso il meno 27. E per il 2009 ci sarà ancora un altro calo e vediamo un mercato ancora più basso del 10%. Però da noi c'è ottimismo, perché quando c'è il mercato in crollo, dalla Renault c'è sempre una reazione. Quando c'è il mercato in crollo, dalla Renault c'è sempre una reazione e speriamo che questa azione corale parta da tutte le case automobilistiche in un momento che è difficilissimo. Però era Philippe Daugé, direttore generale di Renault Italia. Abbiamo recuperato nel frattempo Andrea Malan, che ci stava dicendo, insomma, per descrivere la crisi di questo momento del settore e il clima che si registra in questi minuti al Motor Show di Bologna, si poteva utilizzare una frase di Woody Allen, parafrasandola. Quale Andrea? Sì, la frase era Dio è morto ma anch'io non sto troppo bene, nel senso gli dei americani diciamo che non sono morti ma sono abbastanza mal ridotti, e in Europa i costruttori stanno sicuramente meglio dal punto di vista finanziario, ma appunto sono alle prese, come avete appena detto voi, con un mercato che non è andato bene nel 2008 e andrà ancora peggio nel 2009. Più che altro la cosa più preoccupante è che non si riesce a vedere come sarà il 2009, quindi tendenzialmente la parola d'ordine più diffusa è si naviga a vista, quindi noi facciamo i piani, dicono i responsabili delle Marche, da qui a un mese massimo due, non riusciamo neanche a vedere bene come sarà la domanda nel primo trimestre del 2009. Ovviamente in questi casi è impossibile anche fare dei piani concreti a lungo termine, quindi bisogna essere flessibili, quindi adattabili. Abbiamo riperso ancora Andrea, sappiamo che le condizioni del suo viaggio sono un po' complicate. Mentre lo recuperiamo, vi faccio sentire invece, sempre sul difficile momento del settore, l'intervista che Emilio Buttaro ha fatto anche ad Olivier François, amministratore delegato di Lancia. L'auto è sicuramente un bene che il cui acquisto si può rimandare, dunque speriamo che il trend che abbiamo osservato in questi ultimi mesi, che è recente, non si confermi per troppi mesi nel 2009. Noi comunque siamo preparati, abbiamo un'auto come la Delta che è una risposta ideale, perché concepita totalmente sotto il segno del downsizing, sportività ma economica ed ecologica e lusso accessibile. Dunque penso che dobbiamo sicuramente prendere atto di questo trend del mercato e di queste incertezze per proporre auto più in linea con le aspettative del cliente, ciò che stiamo cercando di fare con un'auto come la Delta. Ecco, in un momento del genere cosa si dovrà fare a suo avviso per dare maggiore fiducia alla gente, anche da un punto di vista pubblico, ovviamente sempre per quanto riguarda il discorso delle auto? Ma in un contesto del genere penso che dobbiamo essere fiduciosi nei nostri prodotti, nelle nostre reti di distribuzione, di vendita e soprattutto dobbiamo essere pragmatici. Sicuramente non dobbiamo né sprecare le risorse né lasciarci andare a interrompere questo momento di dinamica positiva che sta vivendo la Lancia. Io parlo ovviamente per la Lancia. Sicuramente i prossimi mesi sono abbastanza incerti, non è sicuro niente e dovremmo sicuramente in un mare un po' tempestoso navigare un po' a vista con pragmatismo e sicuramente determinazione, ciò che noi siamo propensi a fare. Olivier François, amministratore delegato di Lancia. Andrea Malan diceva che bisogna prendere atto del trend di mercato, ma le case automobilistiche che operano nel nostro paese hanno preso atto anche del fatto che nelle misure anticrisi del governo non sono ricomparsi gli incentivi per la rottamazione? Sappiamo che la Renault gli hanno chiesto ufficialmente, chiedendo appunto un intervento forte del governo, forse perché loro sanno che domani il Presidente Sarkozy proprio in Francia dovrebbe annunciare un piano di incentivi che si dice parte da circa l'euro per l'acquisto di una nuova auto con rottamazione di un'auto inquinante. Quindi la speranza qua al Motor Show è che se la Francia parte e qualcun altro la segue, anche l'Italia si adeguerà per mantenere quella parità di condizioni che per esempio era stata chiesta in termini di aiuti statali dall'amministratore delegato della Fiat Marchionne qualche giorno fa. Aveva detto: noi non chiediamo gli aiuti, ma se aiuti devono essere, è giusto che siano uguali per tutti. Andrea, c'è un ascoltatore che dice: diciamo che se le macchine le facessero pagare un po' meno, magari, insomma, così sostenendo, il mercato potrebbe riprendersi più facilmente. So che a proposito proprio di concetto low cost dell'auto, tu sei andato a caccia di qualche curiosità lì a Bologna. Sì, sicuramente una delle più interessanti, a Bologna non ci sono grossissime novità. Una delle più interessanti è quella che ha presentato oggi la DR, l'azienda molisana, che dall'anno scorso importa e produce in parte, nel senso con qualche modifica fatta in Italia, un fuoristrada cinese, di origine cinese. Dall'anno prossimo intende lanciare un'auto piccola, sempre di origine cinese, prodotta da Lamberi, e quindi diciamo sbarca in un segmento nuovo con un'auto che teoricamente è molto adatta alle nuove condizioni di mercato, appunto alla crisi economica, e che dicono loro sarà venduta a un prezzo interessante, anche se non lo hanno ancora voluto dire. Questo sarebbe il parco di una piccola vettura cinese in Italia. Insomma, anche questa sarà una novità interessante da monitorare. Andrea, non possiamo però esplorarla ulteriormente perché il tempo a nostra disposizione è scaduto e anche perché il collegamento telefonico continua ad essere precario, ma ti ringraziamo comunque per essere stato con noi, pur nelle condizioni di viaggio un po' incerte, visto che Andrea sta tornando appunto da Bologna a Milano. Intanto l'ascoltatore che chiede: non si è capita bene la frase di Woody Allen, era "Dio è morto, ma anch'io non mi sento troppo bene", riferendosi appunto all'andamento del settore automobilistico internazionale. Se le automobili americane se la passano così male, com'è possibile che tutte le altre, appunto, le altre principali economie se la possano passare meglio? È impossibile, una tendenza generale in un momento di incertezza economica totale, siamo coinvolti un po' tutti. Grazie allora per essere stati con noi, grazie a Barbara Bianchi e a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte stasera in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo domani a Salvadanaio alle 12, domani sera ancora a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Buonasera a tutti.